Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità e legge le notizie attraverso il filtro dell'animalità. La nostra promessa è quella di raccontarvi, attraverso fatti di cronaca, il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali. E intendiamo dire con questo che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa millenaria appartenenza. Noi siamo al fianco dei viventi non umani e oggi in particolar modo siamo al fianco degli orsi, che stanno subendo una campagna di odio e di sterminio molto simile a quella che tanti gruppi umani hanno subito nel passato e stanno purtroppo ancora subendo nel presente. Dovremmo chiederci che rapporto intendiamo avere in generale coi più deboli, con chi ha meno strumenti per difendersi, perché è questo a qualificarci come esseri umani o disumani. Nella puntata di oggi, che è la numero 732, staremo nell'attualità, tornando sulla questione degli orsi da parte della provincia autonoma di Trento. Parleremo poi di azioni dirette non violente per il superamento dei circhi, ma parleremo anche di polpi allevati in modo crudele e della coppia Fantino-Cavallo, recentemente scomparsa in quello che non sarebbe, a nostro avviso, corretto chiamare incidente. Non mancherà, come ogni settimana, una ricetta cruelty free a tema curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, che questa settimana dedicherà la sua creatività anche al montaggio musicale. Speriamo di avervi incuriosito. Sonny, M90, è stato ucciso. La sua brutale e vigliacca esecuzione è avvenuta oggi pomeriggio, martedì 6 febbraio, dopo poche ore dalla firma di Fugatti sull'ordinanza di abbattimento. Non è stato dato il tempo alle associazioni animaliste di fare ricorso al TAR e di fermare l'ordinanza. Sonny è stato il primo, la strage è imminente e oggi possiamo dire che è già iniziata. Fugatti vuol far passare una legge ammazza orsi che gli consentirebbe di uccidere 8 orsi all'anno. E abbiamo visto come Fugatti e la PAT non fanno fatica a trovare orsi problematici da uccidere. I responsabili dei problemi di convivenza e di questa politica scellerata sono la PAT, Fugatti e la sua giunta, ma anche ISPRA e in particolare PAPIC genovesi, che, anche se avrebbero il compito di tutelare gli animali selvatici, avallano continuamente scelte dettate soltanto dall'odio, dall'interesse politico ed economico. Scendiamo in piazza a Trento sabato 10 febbraio e lunedì 4 marzo, quando la legge ammazza orsi verrà votata in consiglio provinciale. Non potete mancare, dobbiamo essere tantissime. Ci vediamo a Trento. Abbiamo aperto la puntata dando la parola a Carlotta della campagna Stop Casteller. Siamo infatti costretti a tornare su un fatto gravissimo, un attentato messo a punto dalle istituzioni contro la natura. Quella che noi riteniamo una deviazione grave, uno scarto pericoloso nel rapporto tra umani e il resto delle specie viventi. Un orso, poco più che cucciolo, Sonny, è stato ucciso dalle guardie forestali su mandato della provincia autonoma di Trento, con il benestare dell'ISPRA, l'ente ministeriale che dovrebbe, teoricamente, proteggere l'ambiente. Se digiti M90 e fai una ricerca, ti appaiono orrende armi d'assalto che fanno paura e sono probabilmente simili all'arma che ha sparato e ucciso l'orso Sonny. Nome tecnocratico M90. Un orso giovane, di 2 anni e mezzo, praticamente un ragazzino, incolpevole nel senso che non ha mai ferito o aggredito nessuno, è colpevole solo di essere un orso, di essere curioso, fiducioso. Un orsicidio, quindi, istituzionale, compiuto da guardie forestali e non da un cacciatore bracconiere vigliacco qualsiasi. Ci hanno messo la faccia politici e tecnici. Ormai, quindi, non ci sono più difese e protezioni. È tutto in balia del mercato. Mercato dei voti, mercato delle armi, mercato delle vite. ripercorrendo la storia di Sonny di M90, il 14 ottobre 2024 è stato travolto da un'auto, investito da una automobile sulla statale della Valle di Sole a Mezzana e fugge nel bosco. Viene identificato perché è munito di radiocollare. L'automobilista ne esce incolume, l'animale non si sa e comunque fugge nel bosco. Il 28 gennaio 2024 Sonny M90 segue una coppia a Mezzana. Segue da vicino questa coppia di giovani che stava camminando lungo una strada forestale a Mezzana, probabilmente incuriosito o forse perché sperava di trovare del cibo. Magari qualcuno ogni tanto gli ha dato qualcosa da mangiare. Però la coppia è molto spaventata e l'episodio desta molta apprensione tra la popolazione della valle. Il 29 gennaio la PAT, quindi Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, sostiene che questo orso vada abbattuto, spiegando che è considerato un esemplare problematico perché è entrato varie volte in contatto con le persone nei centri abitati. Ed è stato quindi anche oggetto di numerosi tentativi di dissuasione, che però evidentemente non sono bastati. La provincia autonoma di Trento informa l'ISPRA con l'obiettivo di abbattere il plantigrado e il 3 febbraio l'ISPRA dà il via libera alla provincia. Ok per l'abbattimento o la cattura. Spetta alla provincia di Trento decidere quale di queste opzioni attivare. Il 6 febbraio 2024 M90 viene abbattuto. Ma c'è stato un precedente. Perché non si pensi che sia soltanto un problema di Maurizio Fugatti della Lega. KJ2 è stata abbattuta sul Bondone nel 2017. L'abbattimento è stato ordinato dal presidente della provincia, che all'epoca era Rossi e che era di centrosinistra. Anche KJ2 è stata uccisa il 12 agosto 2017 con un colpo di fucile da parte dei forestali sul Monte Bondone, in provincia di Trento. Nel 2014 l'orsa Danizza, che aveva aggredito un uomo a Pinzolo in Val Rendena, è morta dopo una dose troppo forte di anestetico durante il tentativo di cattura. Come abbiamo più volte segnalato, il vero problema e il nucleo centrale della vicenda degli orsi in Trentino è la gestione, perché per la provincia autonoma di Trento la gestione è solo abbattere e ingabbiare, tralasciando sistematicamente l'informazione e la prevenzione. Quindi non vengono adottati tutti quei sistemi di informazione a tappeto, di cassonetti anti-orso e tutti i comportamenti corretti che andrebbero tenuti laddove ci sono degli orsi in giro. Quindi recinzioni elettrificate, punizioni esemplari per chi foraggia gli orsi mettendo a rischio la vita di quella specie e anche degli abitanti delle valli. Gestire significa mettere intelligenza e cura al servizio della comunità. Incolpare solo gli animalisti e gli animali è solo un paravento dietro il quale si nasconde l'incompetenza. Noi siamo con la campagna Stop Casteller. Ribellione Animale è un gruppo di attiviste e attivisti che ha come obiettivo trasformare la cultura di questa società verso una società antispecista che rispetti ogni animalità. Ultimamente questo gruppo si è fatto notare per un'azione di disobbedienza civile non violenta finito sui principali media nella giornata del 1 febbraio 2024, quando due ragazzi, un uomo e una donna, hanno imbrattato la fontana dei leoni di Piazza del Popolo a Roma, con vernice gialla e rossa che ha sporcato i leoni e la base in marmo dell'obelisco per protestare contro i circhi e contro i maltrattamenti degli animali. Il blitz è stato compiuto da due persone a volto scoperto. I due giovani poi hanno atteso l'arrivo delle forze dell'ordine seduti sui gradini del monumento con uno striscione che recava la seguente scritta: basta animali nei circhi, fino a quando sono stati portati via dai carabinieri nella caserma di San Lorenzo in Lucina. Saranno denunciati per danneggiamento della fontana. Vi leggiamo il loro comunicato stampa. Due due animali ribelli hanno dipinto i leoni della fontana di Piazza del Popolo a Roma. Con questa azione di disobbedienza civile non violenta, apriamo ufficialmente la campagna Kimba, Ruggiti di libertà, nata e ispirata dalla ribellione del leone Kimba scappato dal circo in cui è prigioniero lo scorso 11 novembre alla Dispoli. Sapevi che in Italia esiste già una legge che vieta i circhi con gli animali, ma che non è mai stata ancora applicata? Per questo motivo vogliamo fare pressione affinché il governo emani un decreto legislativo che attui il comma 1 dell'articolo 2 della legge 106 del 2022. Che è già stata approvata dal Parlamento ed è quindi in vigore, ma il governo non la sta rendendo effettiva. Anzi, continua a finanziare questi soprusi. La situazione dei circhi italiani è abominevole. Prosegue così il comunicato del collettivo Ribellione Animale, gruppo di attivisti e attiviste antispeciste. Gli animali sono costretti ad assumere comportamenti che non rispettano le loro esigenze etologiche e degradanti per la loro dignità. Tali pratiche non hanno alcun valore educativo o culturale, ma seguono solamente la logica specista del dominio, dello sfruttamento, ma soprattutto del profitto. I circhi italiani ogni anno ricevono pieno sostegno dal Ministero della Cultura, che finanzia le loro attività attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo. Il 23 maggio 2023 il ministro Sangiuliano ha staccato un assegno da 8,6 milioni di euro a sostegno delle attività circensi, incluse quelle che sfruttano animali non umani. In Italia attualmente ci sono 54 circhi con animali non umani in tournée, per un totale di 2.000 animali esotici coinvolti. Come ribellione animale, si conclude così il comunicato, chiediamo che, una volta applicata la legge, tutti gli animali attualmente costretti a esibirsi nei circhi italiani vengano, quando possibile, liberati e reinseriti nei loro habitat naturali, oppure trasferiti in santuari per animali esotici in grado di provvedere ai loro bisogni. E noi siamo completamente d'accordo con Ribellione Animale e ci uniamo alla loro richiesta e al loro appello. Abbiamo parlato di animali selvatici, di orsi, di animali del circo e di animali oggetto di caccia, ma nel nostro progetto di un mondo cruelty free sono inclusi anche gli animali cosiddetti da reddito, animali cioè oggetto di sfruttamento e allevati per farne cibo a scopo di profitto. Ad esempio il polpo è un animale selvatico? Sì e no. Sì, perché è un animale che vive libero nei mari. E chi fa un po' di pratica sub ha avuto forse la fortuna di incontrarne qualcuno. Ma è anche incredibilmente oggetto di sfruttamento. Si parla di 50.000 tonnellate di polpi pescati con reti a strascico tra Italia, Marocco, Spagna, Senegal ogni anno. Una carneficina inimmaginabile, specialmente per chi conosce questo animale, così sensibile, evoluto e intelligente. In Spagna esiste già l'acquacoltura di polpo e a questa è particolarmente interessata la società multinazionale Nueva Pescanova, che ha da mesi e mesi un progetto in corso per aprire il più grande allevamento e macello intensivo di polpi al mondo e vuole aprirlo sull'isola Gran Canaria. Nueva Pescanova intende allevare e macellare oltre 1 milione di polpi ogni anno. Sono numeri impressionanti che non devono però stupire se il polpo viene proposto nel menù di qualsiasi ristorante, trattoria e osteria del mondo. Questi animali solitari verrebbero stipati in circa 1.000 vasche su 2 livelli, con un grave impatto sull'ecosistema. È stato pubblicato un report dall'eloquente titolo Uncovering the Horrific Reality of Octopus Farming, svelando la terrificante realtà dell'allevamento dei polpi, frutto di un'inchiesta svolta da Compassion in World Farming, una associazione che si occupa proprio di investigare la condizione degli animali di allevamento. In questo report esperti e attivisti hanno dimostrato gli 8 punti controversi e criticabili di questo mega progetto. Meno, meno. Primo, la macellazione, l'uccisione dei polpi usando miscela di ghiaccio. È una morte lenta nella quale il polpo prova dolore, sofferenza e paura. Meno meno. Meno meno. Meno meno. Secondo, le vasche sovraffollate sono una vera e propria tortura per i polpi, che sono animali così solitari. No. Terzo, l'esposizione alla luce di giorno e di notte, una luce artificiale che aumenta la riproduzione, ma aumenta anche l'inevitabile stress per l'avversione che hanno questi animali alla luce. Meno meno. Meno meno. Meno meno. Quarto, l'alimentazione con mangime commerciale che contiene farina e olio di pesce, alimenti non sostenibili e responsabili del sovrasfruttamento delle popolazioni ittiche e selvatiche. Lorsque les filles viennent me taquiner, maman m'a dit, laisse-les tomber. 5. Il rischio di mortalità di massa per sovraffollamento. Addirittura, pensate, ci sono stati episodi terribili di cannibalismo tra questi animali. Meno, meno, meno, meno, je dois pas regarder et surtout pas toucher. 6. Condizioni di salute e rischio della diffusione di malattie all'interno dell'allevamento, con riferimento all'utilizzo di sostanze chimiche e di antibiotici. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. 7. Mancanza di una legislazione europea che prenda in conto il benessere dei polpi, che sono esclusi da tutti i vari regolamenti che riguardano l'allevamento e la macellazione di animali. Meno meno. Meno meno. Meno meno. Ottavo, ultimo punto, l'impatto ambientale della acquacoltura, che richiederà un continuo rifornimento di acqua tramite pompe, processo ad alta intensità energetica, quindi molto sprecone come assorbimento di energia. Inoltre, il sito di costruzione proposto per questo impianto di acquacoltura si trova nelle immediate vicinanze, circa 800 metri, da aree marine protette che fanno parte della rete Natura 2000 dell'Unione Europea. La costruzione, quindi, di questo nuovo impianto potrebbe causare danni significativi a importanti aree di habitat e a diverse specie protette. Inoltre, manca una stima e una valutazione della produzione di rifiuti. Malgrado tutte queste controversie, malgrado mobilitazioni, manifestazioni e petizioni di ogni genere all'Unione Europea affinché non stanziasse i fondi necessari per questo primo allevamento intensivo di polpi, questo progetto non è ancora stato arrestato. Dunque, la preghiera di continuare la mobilitazione, che non deve fermarsi, seguite quindi le associazioni mobilitate, PETA, Compassion in World Farming e ogni altra organizzazione che si sta impegnando. In rete ci sono varie petizioni aperte, noi abbiamo firmato quella di The Animal Rescue Site. Morto domenica 4 febbraio il fantino polacco Dominik Pastuzka, che lo scorso giovedì era caduto da cavallo durante una corsa a ostacoli all'ippodromo San Rossore di Pisa. Il cavallo War Brave, che significa temerario di guerra, verso metà gara ha urtato un ostacolo ed è inciampato a terra. Il fantino invece è stato lanciato in avanti ed è caduto, picchiando violentemente la testa. Pastuzka è stato portato all'ospedale in uno stato di incoscienza. Le sue condizioni sono state critiche fin da subito. Ha riportato un trauma toracico e cranico che ha provocato un'emorragia cerebrale. Il 35enne lascia la figlia di un anno e mezzo e la compagna, che al momento dell'incidente stavano guardando la gara dagli spalti. Dominik Pastuzka era un fantino conosciuto ed esperto. Nel 2023 aveva partecipato a 91 competizioni. Pastuzka era diventato un grande fantino a Merano, la città dell'Alto Adige, che con il suo ippodromo è tempio delle corse a ostacoli in Italia. Lì era stato soprannominato Fortune Man per la sua capacità di montare anche cavalli dal carattere molto complicato. Se ne parla meno, quasi en passant, ma nell'incidente di giovedì scorso è stato coinvolto ed è morto anche il cavallo, che però in realtà è rimasto ferito, ma è stato abbattuto immediatamente. Infatti, quando i cavalli si feriscono, non vengono assistiti. Costerebbe troppo farlo e il risultato sarebbe incerto. I cavalli non sono evidentemente meritevoli di assistenza e cure. Nonostante ci regalino la loro prestanza fisica, in cambio non ricevono molti benefit. Per un commento più ampio su questa vicenda, diamo la parola a Sonny Richichi della Onlus Italian Horse Protection, per noi punto di riferimento e faro nel buio del mondo ippico. Sentiamo. Nei giorni scorsi all'ippodromo di Pisa, l'ippodromo di San Rossore, si è verificata una tragedia doppia, perché a seguito di un gravissimo incidente, di una caduta gravissima, sono morti in sequenza prima il cavallo e poi dopo qualche ora il fantino, che aveva riportato danni cerebrali enormi. È una tragedia che si aggiunge alle tante morti che in questo pseudosport avvengono regolarmente negli anni e che sono dovute sempre alla solita base di sfruttamento di un animale che per sua scelta non farebbe le cose a cui è costretto a sottoporsi, quindi fin dalla nascita, allenamenti, separazione da altri suoi simili, in primis dalla mamma, viaggi continui per andare in giro per gli ippodromi d'Italia, a volte d'Europa e a volte nei casi di cavalli più quotati addirittura del mondo, e quindi fare una vita totalmente innaturale, totalmente fuori contesto, a fare cose per cui è totalmente forzato, perché i cavalli per loro natura e per loro caratteristiche etologiche non sceglierebbero mai di correre in un circuito né di fare una competizione sportiva di alcun genere. Ebbene, tutto questo oggi da una parte è certificato anche dalle ricerche scientifiche, che chiaramente, come ovvio che sia, dicono e affermano quello che abbiamo appena detto, queste forzature fatte su un animale che viene totalmente denaturato. Ma dall'altra parte, parlando di ippica, deve saltare all'attenzione di tutti i cittadini il fatto che questo comparto, questa forma di sfruttamento, è uno sfruttamento di Stato. L'ippica è gestita dal Ministero dell'Agricoltura, delle politiche agricole, è finanziata con soldi pubblici e addirittura da quest'anno, anzi dall'anno scorso, si sta cercando in tutti i modi di incentivarla con grandi proclami da parte dell'attuale ministro Lollobrigida e del suo sottosegretario, che non perdono occasione per spendere parole di rilancio dell'ippica. E se fossero solo parole andrebbe ancora bene, purtroppo sono passati anche ai fatti. Hanno istituito una nuova direzione generale per l'ippica, quindi un nuovo ufficio, un nuovo comparto con persone nuove che hanno degli stipendi che prima non c'erano, e hanno aumentato le erogazioni in termini di soldi, che ammontano già a milioni di euro ogni anno, decine di milioni di euro. Abbiamo un governo italiano che per salvare i cavalli maltrattati non spende un centesimo e non riconosce un centesimo alle associazioni come la nostra che fanno questo tipo di attività, che non contrasta in nessuna forma seria la criminalità organizzata che sfrutta questi animali, non contrasta le macellazioni clandestine, non fa niente a livello politico per mettere a posto un'anagrafe che fa acqua da tutte le parti e che rende facile la sparizione dei cavalli, però dall'altra parte appunto incentiva e foraggia un settore di sfruttamento come questo che è totalmente governato dalla mancanza di trasparenza, non si sa che fine fanno i cavalli che escono da questi circuiti, sono tanti ogni anno e sono cavalli giovani, perché un cavallo nell'ippica smette di essere tra virgolette produttivo e performante già quando ha 8, 9, 10 anni. Sono animali longevi che possono campare oltre i 30 anni facilmente. E quindi mancanza di trasparenza, totale in ascolto delle nostre istanze che da anni muoviamo anche con lettere scritte puntualmente non ascoltate e neanche probabilmente lette, e si verifica una tragedia di questo genere, non viene spesa una parola da chi rappresenta questo mondo. Questo è il quadro di fronte al quale ci muoviamo, nel quale navighiamo. Noi come IHP continueremo le nostre battaglie contro questa forma di sfruttamento e tutte le forme di sfruttamento dei cavalli. Ti ricordi che nebbia ci ha seppelliti una settimana? Ricordi che abbiamo sbagliato strada e risalendo la valle abbiamo scoperto che il cielo era sgombro, eppure nemmeno lì sotto, neppure lo schifo d'inverno, nemmeno l'inferno, vorrei starti lontano, te lo dico più piano, lo penso ogni volta che devo partire, è sempre bello tornare, confuso, spaccato, fatto, sfatto, è bello percorrere i sensi vietati, guidando veloce con gli occhi bendati, raggiungerti e dirti mi piaci, cazzo se mi piaci. Sei la mia città, fuori dal centro, sei la mia città, è un complimento, sei la mia città, ti vengo dentro e se succederà. Abbiamo chiesto al tosco vegan chef Gabriele Palloni di dedicare una sua ricetta speciale ai coraggiosi attivisti imbrattatori della Fontana dei Leoni di Roma. A loro è dedicata la ricetta cruelty free della settimana. Sentiamo la proposta del nostro chef. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Avete lo spirito degli imbrattatori seriali, ma non sapete come dare sfogo a questo irrefrenabile impulso? Ecco qua la ricetta che fa per voi, se non altro vale come allenamento. Spaghetti imbrattati al pesto di finocchio, mandorle e arance. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di spaghetti, 2 finocchi, 1 spicchio di aglio, 2 cucchiai di mandorle, 1 cucchiaio di lievito alimentare, la scorza grattugiata di un'arancia, olio extravergine di oliva, 100 ml di latte di soia al naturale, 180 ml di olio di semi di girasole, qualche goccia di succo di barbarossa, un cucchiaino di carbone vegetale, curcuma in polvere, sale e pepe. Pulite i finocchi togliendo le coste esterne. Lessateli in acqua leggermente salata o al vapore, fino a quando saranno morbidi. Scolateli e fateli raffreddare. Mettete i finocchi nel bicchiere di un mixer assieme alle mandorle, l'aglio, il lievito alimentare, 2 cucchiai di olio extravergine, sale e pepe. Emulsionare il tutto fino ad ottenere un pesto liscio. Aggiungete la scorza di arancia grattugiata, aggiustate di sale e conservate in frigorifero. A parte, con un frullatore di immersione, emulsionate il latte di soia con l'olio di semi fino ad ottenere una salsa liscia e densa. Dividete questa salsa in 4 parti, coloratene una con il liquido delle barberosse, una con la curcuma ed una col carbone vegetale, lasciando un'ultima parte bianca. Cuocete gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolandoli al dente. Mentre la pasta cuoce, mettete un cucchiaino di ogni salsa colorata nei piatti da portata. Con un colpo deciso con il dorso di un cucchiaio, fate schizzare le salse imbrattando i piatti con tutti i colori. Condite gli spaghetti col pesto di finocchi e arancia e sistemate un nido di pasta al centro dei piatti e servite. Gabriele Palloni, autore di alcuni libri di cucina, l'ultimo, edito da Newton Compton, si intitola «Se vuoi vivere sano, cucina, vegano». Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana alla nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Roberta Marino, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 733 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.